Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Giunga a tutti voi, cari ascoltatori, da parte di Gesi e Antonio, il consueto saluto domenicale. Allora, siamo qui anche stasera. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Ecco, e per tenervi così un'oretta di allegria, dai, per farvi un po' di allegria, un po' di e anche un po' di cultura, vero Antonio? Cerchiamo di farlo, naturalmente, dando naturalmente un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera, naturalmente, segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Stasera avremo un ospite virtuale che a suo tempo vi presenteremo. Intanto ci ascoltiamo la prima canzone in programma, che è cantata da Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se non puoi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere 2 consulenti, 2 impresari in 4 per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua, è un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da impare. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo al telefono il professor Antonio Soligon. Buonasera professore. Buonasera a tutti voi. Ecco, e ben ritrovato. Ben ritrovati. Bene, bene. Allora, stasera di che cosa ci parlerà? Allora, vi parlo dei santi di casa nostra, cioè la devozione del mondo contadino, un mondo che è stato il nostro mondo, soprattutto qua in Veneto, fatto di campagne, fino all'arrivo dell'industrializzazione, cioè fino al boom degli anni 60, un mondo che era il nostro mondo e che era permeato di santi. Questo è l'argomento del nostro incontro bellissimo, di oggi. Bellissimo, bellissimo. Allora, a lei la parola. Allora, il mondo contadino, noi adesso lo viviamo con nostalgia, lo immaginiamo bellissimo, lo immaginiamo con romantico, genuini, romantico e soprattutto un mondo fatto di devozione, un mondo la cui giornata, la cui settimana, i mesi, gli anni erano scanditi dalla devozione per i santi, pensate, il calendario, il lunario, era basato sui santi, i nostri vecchi, io sono del 50, quindi ho qualche ricordo del mondo contadino che già cominciava a sparire. I nostri vecchi non dicevano vengo per il 25 di dicembre, vengo per il 13 di giugno, dicevano vegni per Natale, vegni per Sant'Antonio, non dicevano esatto. Ci troviamo il 15 di agosto, se trovengo all'Assunta, non dicevano il 16 di agosto a San Rocco. E poi, ecco, per un altro santo che i nostri ragazzi non conoscono quasi più e che era fondamentale per il mondo contadino, San Martin, vegni per San Martin, fine il contratto a San Martin, perché San Martino era l'11 di novembre, è il santo delle castagne, del vin nuovo, ma soprattutto era il santo nel cui giorno si stipulavano i contratti agrari. Le annate ufficialmente si chiudevano per aprire la nuova annata l'11 di novembre, quindi i mezzadri, se poteva, se doveva succedere, abbandonavano un padrone, una campagna, e con i loro carretti, le tre strazze che avevano, andavano a vivere presso e a lavorare presso un nuovo padrone, per cui per esempio è rimasto nel linguaggio tradizionale il modo di dire far San Martin. Ripeto, i ragazzi non riescono neanche più a capire che cosa significhi far San Martin. Far San Martin significa traslocare. Sì. Io vedo l'amico che va via tutto gobbo, cosa ti è accaduto? Tasi ho fatto San Martin, cioè ho traslocato. Certo. Ecco, il calendario era proprio tutto scandito sui santi, ma anche le previsioni del tempo, non c'era Bernacca. Non c'erano i siti internet, il meteo.it, i nostri contadini si basavano sui colori del cielo, vi ricordate? Rosso di sera, bombe, tempo si spera, sì. E sulle grandi feste religiose, per esempio la notte tra il 5 e il 6 di gennaio, l'Epifania, qui soprattutto nella sinistra Piave si accendevano i falò, i panevin, ve li ricordate? Forse sì, una festa grandissima. Si osservavano le faville, le loro direzioni, e i vecchi sentenziavano: fuisce a mattina, ciol sul sacche va a farina, fuisce verso sera, poenta pen cagliera. Cioè si facevano le previsioni sull'abbondanza o sulla scarsità dell'annata osservando la direzione delle e loro ci credevano. Non è folklore come per noi quando andiamo ai pochi panevin sopravvissuti. Loro ci credevano veramente. Oppure il 2 di febbraio, il giorno della Candelora o della purificazione della Vergine, vi ricordate cosa dicevano? Quando viene la Candelora dell'inverno si muore. Bravissimo, dell'inverno siamo fora. Ma se piove, tira vento. Dell'inverno siamo dentro. Altro che Bernacca. Queste erano previsioni del sì, tempo. Sì. E poi forse sapete anche quella dell'ascensione, dell'assenza. Se piove per l'ascensa, per 40 giorni non siamo senza. Ecco, siete dei professori, veramente bravissimi. E poi tutti i ritmi della terra che sono legati al concetto di nascere, crescere e morire, perché la natura si risveglia a primavera e poi muore durante l'inverno, e quindi simbolicamente la natura rappresenta anche la nostra vita, che nasciamo, cresciamo, decadiamo e moriamo. Anche quei ritmi della terra avevano un rapporto profondo con i santi. Pensate al nostro Natale. Il nostro Natale, che in realtà sostituisce una festa pagana, che cos'è? È il solstizio d'inverno. Sì. Quando dopo il solstizio, il sole è fermo, è la giornata più corta dell'anno, finalmente il sole comincia a prendere il sopravvento. A Natale, che è il 25 di dicembre, già la giornata si è allungata di una manciata di secondi. Quindi simbolicamente Gesù che nasce è il sole che ritorna, Gesù, vera luce del mondo. E quindi è una festa del solstizio. E la Pasqua? La Pasqua è l'equinozio di primavera, quando le giornate diventano più lunghe delle notti. Cristo che risuscita è la vittoria della luce sul buio. Sono le giornate che diventano più lunghe del buio. E poi la Pentecoste, quando discende lo Spirito Santo. Pentecoste sono 50 giorni dopo. È il solstizio, è l'arrivo dell'estate con il Corpus Domini. L'Assunta è la festa della piena estate, con l'Inguria, il 15 di agosto, e poi arrivano i morti. I morti il 2 di novembre, è l'inizio dell'autunno, e si va verso però al Natale di nuovo, quando il sole ricomincia a vincere. Ai santi si offrivano le primizie, i fiori. Ecco, noi del mondo contadino abbiamo questa visione, no? Il mondo contadino erano i santi, erano i fiori, le rose che si offrivano in maggio alla Madonna, il cibo genuino. Ma io ho un a proposito di cibo genuino, Fioi, la carne la era dura come il bec, diciamocelo pure. E poca anche magari. E poca. Il vino era terribile. Tremendo. Dopo pochi mesi era aceto. Andava in baia. Allora era un vino duro in cui bisognava accontentarsi, era, volevo dire, una vita dura in cui bisognava accontentarsi di quello che c'era. Il mondo contadino, in realtà, e qui voglio che andiate con l'immaginazione non a 50 anni fa, ma a secoli fa, il mondo contadino era veramente una valle di lacrime. E se considerate che le nostre società erano società agricole, quindi il 90-95% della popolazione viveva sulla terra, lavorava la terra, l'altro il 2-5% erano i privilegiati, quelli che comandavano, quelli che avevano posizioni di rilievo. È così, la quasi totalità della popolazione era popolazione contadina, e la loro vita era veramente una valle di lacrime, come si diceva nelle preghiere, no? Di questa valle di lacrime. Sì. Era così. Noi non ce ne rendiamo più conto, perché abbiamo le comodità. Se stiamo male c'è il medico, abbiamo le medicine, i viaggi, ma era veramente una valle di lacrime. Era un mondo fatto di fatica, si lavorava tutto a mano, se si spacchea la schiena. Era un mondo fatto di paura, paura di perdere la fatica che avevi investito, di non raccogliere a sufficienza. Era un mondo spesso fatto di fame, era un mondo in cui veramente si tirava la cinghia se non si moriva, e i contadini erano bestie da lavoro. Pensate che nel Medioevo erano i servi della gleba, ma servus in latino vuol dire schiavo, illetterati, analfabeti naturalmente, analfabeti, poveri, brutti. Erano veramente delle creature ripugnanti, provate a immaginarli, sciancati, perché se si rompevano qualcosa nessuno li aiutava, senza denti, butterati dal vaiolo, luridi, sporchissimi. Pellagra. La pellagra era veramente un disastro di lacrime. Ma non soltanto il nostro mondo del Medioevo, è sempre stato così nel mondo contadino, anche se andiamo presso gli antichi egizi, la quasi totalità si spaccava la schiena e il faraone se la godeva, ma era uno il faraone. Allora ecco, la religiosità, la devozione in questo mondo di fatiche e di paure, in cui lavori tanto ma non sai se raccoglierai, non sai se potrai mangiare. Precarietà assoluta. La precarietà, l'incognita, in quel mondo, anche nel mondo degli antichi egizi, sempre il mondo contadino è rimasto sempre uguale a se stesso nei millenni. Gli idoli e poi i santi cristiani ti consolavano. Professore, un attimo solo che ci fermiamo un momentino. Sì, stiamo su questa speranza che i contadini avevano nei santi. Allora, ci ascoltiamo la seconda canzone in programma, che è cantata da Edoardo Vianello, O mio Signore. Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio Signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto quello che tu hai fatto. arriverò. Se questa sera posso farti una preghiera, fa che domani, fa che domani lei ritorni da me. Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite. A proposito di religiosità, diciamo che il brano dovrebbe attagliarsi abbastanza bene. Perfettamente. Ecco qua, allora a lei la parola. Sì, eravamo rimasti al mondo contadino, sì, che sì, era una valle di lacrime, e vi avevo proposto questa considerazione: gli idoli prima e i santi dopo erano la consolazione delle paure di questa valle di lacrime. E agli idoli, ai santi, che cosa si offrivano? Le primizie, le cose più preziose, per poi assicurarsi un buon raccolto. E l'offerta agli idoli, l'offerta alla divinità, si spingeva fino, e sto per dire una cosa drammatica, ma che era tipica di tante tante popolazioni, si spingeva, vi dicevo, fino ad offrire i sacrifici umani, i propri stessi figli. Pensate, mamma mia, questa era triste. Pensate ai fenici che offrivano i loro primogeniti, esatto, agli dei. Ma questa offerta del primogenito era anche presso gli ebrei. Che cosa chiede a Abramo che in tarda età finalmente ha avuto un figlio, l'unico figlio, Isacco? Gli domanda il figlio in sacrificio, e Abramo cosa fa? Sale sul monte Moria obbediente e sta per sgozzare Isacco ed offrirlo a Dio. Lo ha già messo sulla pira, poi ne brucerà il corpo, perché le offerte andavano bruciate perché il fumo potesse salire verso il cielo. Ma compare un angelo che ferma la mano del patriarca e gli dice di sacrificare al posto del figlio l'agnello, che diventerà il capo espiatorio e simbolicamente il simbolo di Gesù, che pur innocente verrà sacrificato sulla croce. Il mito di Abramo pronto a sacrificare al Dio anche il suo figlio compare anche nel mondo pagano. Vi ho parlato dei fenici, ma pensate al mito classico di Ifigenia. Gli Achei devono salpare per Troia, ma la dea Artemide è adirata contro il re Agamennone, che ha ucciso in una partita di caccia una cerva lei sacra, e impedisce quindi ai venti di alzarsi e alle navi achee di salpare per Troia e liberare Elena. E allora il re Agamennone, per ammansire la dea, è costretto ad offrire in sacrificio la propria stessa figlia, Ifigenia. Ma mentre i sacerdoti, Calcante al sacerdote, sta per sgozzarla per poi bruciarla sull'altare, compare la dea che mette al posto della fanciulla una cerva che verrà sacrificata e salva la cerva. Ditemi se non è uguale, grosso modo, al mito di Abramo. Sono quindi le paure che andavano ammansite, sì, con doni offerte agli dei. Pensate, poi il mondo pagano letteralmente tramonta, arriva il cristianesimo, ma dobbiamo considerare che il cristianesimo prima si diffonde nelle città, perché i cittadini hanno mentalità più aperta. Nelle campagne i contadini, legati alla paura di perdere il raccolto, non volevano rinunciare al culto degli dei. Sapete da dove deriva la parola pagani, cioè adoratore degli idoli? Deriva dalla parola latina pagus, che significa campagna, perché gli ultimi adoratori degli idoli erano i contadini, cioè i pagani, cioè gli abitanti della campagna. Mentalità retriva, giustamente. Certo, nonostante tutti gli ordini dei vescovi che risiedevano in città continuavano nei boschetti ad offrire le primizie a sacrificare alle loro statuine, perché pensavano che senza quelle i loro raccolti sarebbero stati in pericolo. E allora il mondo cristiano, capendo di non poter cancellare completamente queste credenze dei contadini, perché erano credenze legate a paure, a necessità profonde, lentamente hanno sostituito agli idoli i santi. Ecco il passaggio com'è. Guardate che molti dei nostri santi antichi, di cui non si hanno nessun documento, nessuna testimonianza storica, sono in realtà la trasposizione in parole cristiane di idoli pagani, e quindi nascono le immagini sacre che sperano, che consolano, e la Chiesa le lascia circolare, perché erano la consolazione queste immagini nella valle di lacrime. C'è stata l'iconoclastia, no? Qualcuno esatto. Che ha tentato, dicendo ma questa è idolatria, di distruggere tutte le immagini sacre, gli imperatori d'Oriente. Però se andate al concilio di Nicea del 787, quindi parliamo di 1300 anni fa, il concilio di Nicea condanna l'iconoclastia e dà la patente di legalità all'immagine della croce e alle immagini sacre, che quindi riempiono le chiese, i capitelli, gli alberi sacri. Pensate ai nostri altarini sopra gli alberi sacri, che sono sempre alberi selvatici naturalmente, perché sono alberi tabù su cui l'uomo non deve aver messo mano, non possono mai gli alberi sacri, ne sopravvive ancora qualcuno nelle nostre campagne, gli uomini non possono averlo potato, non possono averlo toccato, perché è appunto una pianta tabù. D'altra parte, se andiamo a analizzare l'etimologia del sacro, sacro deriva da sacer, ma in latino antico sacer non è altro che il boschetto, cioè laddove nel buio, nel mistero del bosco si compivano i riti magici, quindi sacro vuol dire bosco, boschetto, e reggono gli altri, i nostri alberi sacri. I santi proteggevano la casa, la stalla, i campi, allontanavano i pericoli e propiziavano i buoni raccolti. E qui basta parlare delle rogazioni. Vi ricordate le rogazioni? Certamente. Sono sparite con l'arrivo delle industrie, con la fine delle famiglie patriarcali, cioè, le mezzadrie e tutto quanto. Esatto, sono sparite con la sparizione dell'antico mondo contadino. I nostri ragazzi, ripeto, probabilmente non sanno neanche più che cosa. Io ho scritto un libro sulle rogazioni e ho fatto tantissima fatica nei vari paesi a ricostruire i percorsi, a trovare tracce della cosa, perché non ci sono tracce di documenti scritti, e ho dovuto affidarmi ai ricordi dei vecchi, i vecchi vanno sparendo e quindi gli unici testimoni di queste rogazioni. Erano di due tipi le rogazioni, si chiamano così perché l'invocazione che si faceva girando per i campi era te rogamus audi nos, ti imploriamo, rivolta a Dio la preghiera, ti imploriamo, ascoltaci, te rogamus, da cui rogazioni, sono antichissime le rogazioni, hanno sul groppone quelle cristiane, intendo dire, 1600 anni e più. Però la rogazione maggiore era il 25 di aprile, 25 di aprile durava solo un giorno, e pensate che quella del 25 di aprile deriva direttamente da una festa pagana, gli Ambarvaglia, quando i contadini, per propiziare i buoni raccolti, giravano per i campi, ambarvaglia significa giro per i campi, e offrivano poi a una pecora o a un bue, a seconda delle proprie ricchezze, agli dèi, per propiziare il buon esito dell'annata agraria, perché era una dura fatica avere il cibo, ed era anche molta fatica poi. Il rischio non era soltanto che si lavorava tanto e forse non si otteneva il prodotto. Anche nel caso in cui, in caso felice, in cui si avesse ottenuto un buon raccolto, c'era poi la difficoltà di conservarlo. Chi ti poteva portare via il tuo raccolto? Pensate ai topi, alle invasioni dei topi, che potevano mangiarti tutto. Oppure le muffe, che nel granaio potevano erano pericolosissime. Sì. Oppure i ladri o le invasioni, gli eserciti nemici che ti portavano. Guardate che durante la guerra dei 30 anni, siamo nel 1600 in Germania, le invasioni delle soldataglie che vagavano di qua di là, oltre alle violenze, alle uccisioni, alle ruberie, avevano portato a conseguenze drammatiche, perché i soldati ti portavano via non solo il cibo, ma anche la semente, si mangiavano anche quella. Per cui tu l'anno dopo non avevi da seminare, eri condannato a morte. Esatto. E quindi era molta fatica conservarlo. E cosa allora qual era l'invocazione durante l'erogazione maggiore? Ut fructus terre dare et conservare, affinché tutti degni di darci e conservarci il frutto della terra. E poi tutti insieme urlavano, io dico che urlavano, perché loro avevano tanta paura e quindi chiedevano, urlavano a Dio la loro preghiera, te rogamus, audi nos, ti imploriamo, ascoltaci, perché loro non erano come noi, che se nell'orto l'è andata mal, tira nel frigo e mangia in qualcosa altro. Non c'era niente da loro. Invece adesso vi parlo delle erogazioni minori, che erano le più belle, almeno nei ricordi dei vecchi, perché duravano 3 giorni e si andava in giro per i capitelli e le chiesette per 3 giorni e poi si chiudeva il ciclo delle erogazioni minori nella chiesa parrocchiale il giorno dell'Ascensione. Anche le erogazioni minori sono antichissime, pensate che sono nate nel 474 in quella che allora si chiamava Gallia e adesso noi chiamiamo Francia. E le erogazioni minori invece erano non per propiziare il raccolto, il buon raccolto, ma per allontanare i pericoli del raccolto. Quali erano i pericoli? Il fuoco, che ti bruciava tutto, la siccità che spaccava la terra e faceva perire le piante, la grandine, la tempesta, le cavallette bibliche. Per cui l'invocazione che si negli angoli dei campi si rivolgeva alla divinità era questa, e ve la ricordate sicuramente: a fulgore e tempestate, dai fulmini e dalle bufere, a peste, perché il terrore della malattia, fame, la carestia, et bello e guerra, libera nos domine. Io dico che anche questo libera nos domine era gridato, urlato da questi poveri contadini che giravano con il prete per i loro campi, sperando che Dio li ascoltasse e allontanasse da loro il fulmine, la grandine, la malattia, la carestia e la guerra, perché i soldati, lo abbiamo detto prima, ti portavano via tutto. Vivevano sempre in ansia, poveretti. Sì, una reminiscenza proprio personale. Le croci in testa ai filari, eccetera, che c'erano sugli alberi. Io ricordo qualcosa anche vagamente. Sì, c'erano le croci su ogni filare, mi pare, per a scopo di protezione, mi pare. Esatto. Proprio per proteggere, attraverso l'aiuto dei santi, in questo caso della croce, il raccolto, perché da quello dipendeva la tua vita. La loro paura era veramente tanta. Loro davanti alla grandine non avevano mica le reti, loro erano indifesi, ed era la fame per tutti. Un attimo, professore, che ci fermiamo. Sì, per un'altra canzone l'ascolto volentieri. Allora, La casa in riva al mare, cantata da Fiorella Vannoia. Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia e tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia, e sognò la libertà. Sognò di andare via, via. silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Marie, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stan passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Questa sera vengo fuori, Marie, vedrai che bella la città. E sognò la libertà, e sognò di andare via, via, e un anello vide già sulla mano di Maria. E sognò la libertà, e sognò di andare via, via, e un anello vide già sulla mano di Maria. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite al quale lasciamo la parola. Stavamo parlando delle erogazioni e dicendo che sono scomparse con l'arrivo della società industriale. Allora, ma non c'erano solo le erogazioni, la religiosità, la devozione permeava, possiamo dire, ogni istante della vita in campagna. C'erano santi per tutti i bisogni e per tutti i momenti, erano i santi ausiliatori che ti aiutava, soprattutto nella malattia, perché i medici non c'erano le risorse o le cognizioni mediche erano veramente scarse. Allora nella malattia ci si rivolgeva ai santi, lo facciamo ancora adesso, no? Non so più che santo soprattutto contro la più terribile di queste malattie, ne abbiamo parlato, se non ricordo male, nel nostro primo incontro. Quindi Sebastiano, il santo delle frecce che ti proteggeva contro la peste che distruggeva le famiglie, distruggeva i villaggi, e poi San Rocco, il santo che non fa autostop, ma mostra la gamba denudata per far vedere il bubone. San Rocco. La cui devozione era vastissima, il corpo, ve lo dicevo, i veneziani se l'avevano procurato, e dal 1485 è a Venezia in quella magnifica chiesa con la magnifica scuola grande accanto, appunto, di San Rocco. Ma poi c'erano santi specializzati come i nostri medici, che sono specialisti nelle diverse malattie. Avevamo una gamma di santi a cui i contadini si rivolgevano, che era vastissima e specializzatissima. Lucia, lo sappiamo tutti, gli occhi, e poi Apollonia per il mal di denti, perché Apollonia era stata martirizzata con le estirpazioni senza anestesia dei denti, per cui Apollonia protegge contro il mal di denti e protegge poi anche i dentisti, ed è una santa che mi fa invidia, perché vi sembra che Apollonia non protegga bene i dentisti? Porca miseria, se non li protegge bene. Vorrei avere anch'io una santa protettrice così. Non si può dissentire. Vero. Avere un santo in paradiso, i dentisti ne hanno uno potente, Apollonia. Poi, continuando una breve carellata, Barbara, che ti proteggeva contro i fulmini. Ricordiamoci che la morte per fulmini, non c'erano i parafulmini, era molto comune, anche perché il fulmine facilmente incendiava le case che erano capanne in realtà di legno e di paglia, quindi la morte per fulmine era molto comune, diffusa, e Barbara era molto invocata. Le case si incendiavano, ecco San Floriano, che viene rappresentato come un guerriero con un gran secchio in mano, soprattutto in Tirolo, in Cadore, che spegne il fuoco, incendi. Poi si aveva paura di non avere figli, perché se una famiglia non aveva braccia da mettere nei campi, i figli erano un investimento, adesso sono un costo, perché li devi portare fino ai 30 anni, non guadagnano niente, e quando cominciano a guadagnare, giustamente ti dicono ciao ciao, e se ne vanno per la loro strada. ma una volta si restava in famiglia e i figli erano l'investimento, erano sì. quelli che lavoravano la terra con te, che sostituivano te quando diventavi vecchio, erano la tua pensione, sì. i figli, perché ti mantenevano. Allora pensate che dramma non avere figli. Qual era la santa che veniva invocata? Anna, perché Sant'Anna, ah, la sì, mamma sì, di Maria, ha avuto figli tardi, sì. Ha avuto Maria molto sì, tardi molto con tardi, sì. Gioacchino. Forse non sapete che poi, secondo le leggende, Anna è rimasta vedova più volte, quindi si è sposata 3 volte e ogni volta ha avuto una figlia e ha sempre messo nome a queste figlie Maria. Maria la prima, quella mamma di Gesù, sì. poi c'è un'altra Maria, le famose 3 Marie. Esatto, le 3 Marie sono le 3 figlie di Anna che proteggeva contro la sterilità, esatto. Ma c'era anche Margherita, per esempio, Santa Margherita. Santa Margherita proteggeva nei casi dei parti difficili, perché la leggenda diceva che era stata ingoiata da un drago. Il drago è il male, naturalmente, sì, il sì. diavolo, ma lei, brandendo un crocifisso, era riuscita a venire fuori dal ventre del drago, e quindi è un parto. Allora, nel caso di parti difficili, le levatrici non c'erano, il dottor Gnanca, il stupore femmine, le partorie in mezzo al campo, a volte, ecco allora che si invocava Santa Margherita. Ma per esempio, lo sapete, qual era il santo che veniva invocato nel caso di parto podalico, cioè di bambino che si presentava era la morte per la mamma e la morte anche per il figlio, chiaramente. Lì, in quel caso, il santo che si invocava era San Leonardo. Ah, vedete che sì, perché secondo la leggenda la regina di Francia aveva un parto, il bambino si presentava podalico e lui con una preghiera era riuscito a far girare il bambino e a far avvenire felicemente il parto, salvando la regina e salvando l'erede al trono. Per cui nel caso di parto podalico si invocava San Leonardo. San Quando Leonardo. Vi dicevo che i santi erano specializzati, eccomi i nostri medici, non scherzavo, avete visto? Quindi, ecco, tanti santi, vi faccio un altro esempio. Una delle pochissime risorse delle nostre famiglie contadini per secoli, secoli e secoli era l'allevamento, perché noi cominciamo con i bacchi da seta, i cavalieri, sì, sì. Esatto. Intorno al 1000 già noi siamo grandi produttori, grandi allevatori. Dicevo che uno dei pochi mezzi per avere un po' di denaro liquido era proprio levare in casa i cavalieri. Vi ricordate? Bisognava tenerli al caldo. Sì, esatto. Noi andavamo al freddo, partagnieri, cavalieri al caldo. Le lettiere con le foglie di morero. Foglie dei gelsi. Se parliamo i nostri ragazzi, non sa neanche cosa che sia le foglie di morero. Sì. Ecco. Allora, c'erano tanti santi che i contadini invocavano perché le loro fatiche, anche a stare al freddo, perché i cavalieri stavano al caldo, perché le loro fatiche arrivassero a buon frutto. Naturalmente il santo più invocato era Giorgio, San Giorgio, perché era un cavaliere anche lui, e quindi il cavaliere San Giorgio. Ma poi, siccome l'allevamento era faticoso e delicato e non si sapeva se si fosse giunti felicemente a raccogliere le gaete al frutto, si invocavano in itinere tanti santi. Pensate che si invocava San Zeno, il vescovo di Verona, San Giobbe e poi San Giuseppe e la Madonna della Palma. Adesso vi do una carrellata velocissima di San Giobbe, abbiamo già parlato, è il santo delle piaghe, no? Della nostra conversazione. La pazienza di Giobbe. Esatto, la pazienza di Giobbe, Dio lo aveva messo alla prova. Sì. Ma adesso vi dico una cosa. Qui da noi nascono gli stabilimenti bacologici tra 800 e 900. La zona di Vittorio Veneto era la più famosa d'Europa, esatto, per stabilimenti bacologici, dove si selezionava il seme e si dava quindi ai contadini il seme migliore, le uova del bacco da seta migliori selezionati, e questo garantiva un buon raccolto. Ma prima degli stabilimenti bacologici era il contadino che se faceva la semenza, come mio padre che dell'orto metteva via il cetriolo più bello, la zucchina più bella, e poi seminava quei semi. Allora i contadini mettevano via le gaete pibee, da cui poi in primavera nasceva la farfalla e le uova. Allora San Giuseppe, vi dicevo, lo sappiamo tutti, è il 19 di marzo. Era uno dei protettori. Perché? Perché i contadini contadini che si facevano la semenza in casa avevano questo modo di dire. Vediamo se lo sapete. De Sant'Iseppo semete i cavalieri in cao del letto, cioè portavano dentro il seme, lo mettevano in cao, in capo del in letto, capo. Per cominciare a tenerlo al caldo, sì, in modo che le uova si schiudessero. E San Zeno invece, che è il 12 di aprile, vescovo di Verona, nei quadri lo riconosciamo perché ha un pesce in mano, era un pescatore. Sapete cosa facevano i nostri contadini? Sentite questa: a San Zen la semenza si mette in sen. Sapete perché? Perché per tenere le uova al caldo le donne si mettevano i semi dei cavalier tra le tette, scusate l'espressione, ma li tenevano al caldo tra le donne. Pensate. Oppure dicevano per San Zeno: chi vuol una buona gaeta, de San Zen la metta. Oppure ancora: de San Zen se mette i cavalier nel fen, cioè li mettevano al caldo nel fieno. E vi dicevo che non era facile portare a termine l'allevamento dei cavalieri. Potevano arrivare le formiche, per esempio, che divoravano le uova. Mamma mia. Eh sì. E lì tutte le tue speranze di avere un po' di guadagno andavano in fumo. Allora le uova si benedivano con l'ulivo benedetto, quello che si era benedetto la domenica delle Palme. Prima di Pasqua in chiesa. E se finalmente in giugno si arrivava a raccogliere le gaete, sapete che i cavalieri andavano in bosco, cioè si arrampicavano su dei rami che si mettevano apposta su di loro, e lì facevano la metamorfosi, si chiudevano nel bozzolo di seta. Beh, il ramo più bello, più carico di gaete, veniva offerto alla Madonna per ringraziarla, e questa era la Madonna della Palma, perché il ramo pieno di gaete veniva chiamato La Palma, si portava in chiesa. Ecco perché la Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme, quella era perché Gesù è stato accolto a Gerusalemme, con le palme. Mentre la Domenica, ma è lo stesso concetto, Palma come segno di vittoria, di trionfo. Sì. Per cui il trionfo, hai portato a termine l'allevamento dei cavalier, hai le tue palme piene di gaete, e la più bella in segno di trionfo veniva offerta alla Madonna della Palma. Oppure ve ne dico un'altra, questa la sapete di sicuro, no? E riguarda Sant'Antonio da Padova e il Sequeri. Sequeri, mamma mia, Sequeri miracola. Bellissimo, bravissimo. Allora, questo è un responsorio, cioè una preghiera del 1000, a cui si rispondeva nel 1200. Ma nel mondo contadino, che non sapeva il latino, il Sequeris Miracula è diventato il Sequeri. Sequeri. Pensate che il mio libro, uno dei miei libri di maggior successo, è un libro nel quale ho pubblicato integrale il testo del Sequeri. Mi fermavano per strada e mi dicevano: professor, grazie, che bel, posso dire su tutto il Sequeri. Pensate, è stato il mio più grande successo, che ho anche detto: ma perché non ci ho pensato prima, accidenti, che lo pubblicavo subito e vincevo il Nobel. Ma allora, professore, lo facciamo in una trasmissione, lo... Magari parliamo del Sequeri. Okay. Adesso vi anticipo che le donne, anche gli uomini, lo recitavano per ritrovare gli oggetti smarriti. Perdi qualcosa, reciti. Sant'Antonio, pien di virtù, fammi trovare quel che ho perduto. È bravissima, bravissima, bravissima Gesuina. Ma vi dirò un'altra cosa che forse non tutti sanno, che le ragazze recitavano il Sequeri anche nel caso in cui avevano perso un fidanzato e ne volevano trovare un altro. Quindi il Sequeri chiodo scacciachiodo per trovare il moroso. Chiodo scacciachiodo, no? Lui non la sapeva questa, forse no. No. Vede che ho detto una novità questa volta. Allora ci fermiamo un attimo per ascoltarci un'altra canzone, che è La mia libertà, canta Franco Califano. Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Vivo la vita, non sia la giornata, con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rosa e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera ti va. Eccoci di nuovo in studio. Professore, abbiamo l'ultima tranche, circa di una decina di minuti. Quindi, a lei la parola. Sì, allora il sequeri è anche per trovare il moroso perduto e poi una parte importantissima del casolare, della cascina, era la stalla. E lì era importante la stalla per l'economia familiare e tanti erano i santi che si invocavano. Ne cito alcuni, San Valentino, San Floriano, quello degli incendi, che veniva invocato anche a protezione della stalla, Osvaldo, ma soprattutto Sant'Antonio Abate, che non è da confondere con Sant'Antonio da Padova, che viene festeggiato il 13 di giugno. Sant'Antonio Abate, il 17 di gennaio, bravissima. Quante immagini di Sant'Antonio Abate, questo vecchio con la barba bianca, il bastone, la campanella e accanto al Porsetti, il maialino, vedevamo nelle nostre stalle. Io me li ricordo questi santini inchiodati alla porta, alla finestra, e Sant'Antonio viene rappresentato con tutti un fuoco, il bastone col campanello e tutti gli animali intorno. Il fuoco perché proteggeva contro l'herpes, il fuoco di Sant'Antonio. Sì, è vero, mamma mia. Seminava vittime e sì. Ed era il protettore soprattutto dei maiali, il famoso Porcel de Sant'Antonio. Sì. Ma sapete che questa sua protezione, questa sua giurisdizione era nata da un equivoco, perché Sant'Antonio Abate è un santo orientale, è vissuto nella Tebaide in Egitto, e nel mondo orientale il maiale è simbolo di sporcizia e di peccato. Mm-hmm. Pensate che ebrei musulmani non possono neanche. Naturalmente. Esatto. Allora, nelle icone, siccome Sant'Antonio aveva cacciato via i diavoli rappresentati appunto simbolicamente dal maiale, nelle icone veniva rappresentato con un maiale accanto nell'atto di schiacciare, cioè schiacciare il male, le tentazioni. Ma sapete, noi occidentali siamo un po' terra a terra, non siamo come gli orientali, tutti teorici. Quando vedevamo nelle icone sto santo con accanto un maialino, immaginavamo immediatamente saiami, soprese, lurane. È andata così. Pensate che Sant'Antonio Abate, da colui che schiacciava il maiale, per noi molto praticoni e terra terra, ripeto, è diventato il santo che proteggeva il maiale e poi da lì proteggeva tutti gli altri animali. Ecco perché quindi lo vedevamo anche sulle nostre spalle. Il porcello di Sant'Antonio, lo sapete, sì, era il maiale che girava per le famiglie. Tutti gli davano da mangiare, però poi macellarlo era di competenza del monastero, era di competenza del piovan che si procurava, era un modo per dare una paga al parroco. Era intelligente il porcel di Sant'Antonio, perché girava tutte le case della parrocchia, ma non usciva mai fuori, perché sapeva che lo prendevano a calci se girava fuori, quindi imparava immediatamente quelli che erano i confini della parrocchia. Pensate che tra l'altro l'herpes, le irritazioni dell'herpes si curavano, si fa per dire, mettendoci sopra grasso di maiale, quindi il maiale era proprio legato al culto di Sant'Antonio e alla protezione contro un'altra malattia terribile che era appunto l'herpes. I maiali vengono uccisi in inverno, lo sapete, sì, però sì, i vecchi contadini mai, mai e mai avrebbero macellato un maiale il giorno 17 di gennaio, perché sì, era il giorno di Sant'Antonio, e quindi non si poteva copare il porcel giusto nel giorno del loro santo della protezione. Ecco, anche questo vai a dirlo ai macellai del giorno d'oggi, sì, guardano che è... Ma per i nostri contadini era importantissimo. Una cosa simbolica, giustamente. Simbolica. Sì. E poi nel mondo contadino, non so se voi avete mai sentito, quando ammazzavano nei cortili il maiale, i grilli erano... Sì, mamma mia, tremendi. Si sentivano ovunque. Sì. Allora nel mondo contadino così volgare, così drammatico, così forte, c'era però anche una certa gentilezza rusticana, io direi, nei confronti dei bimbi più piccoli, che nel momento del macello venivano allontanati con la scusa di mandarli lontano a prendere la misura o lo stampo dei sei anni. Vi ricordate? Sì, certo, è successo sì, anche a me. Mi hanno mandato in tanta di malora, avevo 4 anni, allora si tirava i capelli. Adesso saresti un incosciente a mandare un bambino. Assolutamente, una volta era la regola. Era la regola. Sono arrivato in questo cortile, ho chiesto tutto intimidito, sono venuto a giorno la misura dei 6 anni, mi ha mandato a me pare, mi ha dato un sacco pesantissimo, l'ho trascinato 4 anni, era piccolo e magro, per tutto il paese, sono tornato nel cortile, il maiale era già stato ucciso, c'era la festa in corso, lì ho aperto davanti a tutti, orgoglioso della fatica fatta, il sacco con le misure dei 6 anni, in realtà dentro c'erano sassi, pietre e tutti rilevano. C'era l'omertà totale, perché l'anno dopo tu che già eri stato vaccinato facevi lo scherzo ad un altro. Quindi l'omertà era totale. Sì, sì. Allora il santo dei... sto quasi per finire, vi faccio un'ultima considerazione. Il mondo contadino verso il quale noi abbiamo una nostalgia grande, perché lo abbiamo idealizzato. Insieme, chiacchierando, abbiamo visto che invece era un mondo molto duro in cui si faceva tanta fatica e non si aveva mai la certezza di mangiare veramente. E queste paure, queste fatiche trovavano la loro consolazione nella speranza della protezione di Dio e dei santi. È un mondo che è finito. È finito per sempre. Sì. E io che ne ho visto le ultime tracce e le ultime fatiche, dico che per fortuna è finito. Se noi tornassimo indietro in quel mondo sarebbe veramente drammatico. Molto drammatico. Sì. Per fortuna è finito, però aveva anche tante cose belle. Ecco, sì, appunto, tante cose positive. Tante cose positive. Sì, sì. Vi dico una cosa. Quando qualcuno mi invita al pane vin, perché ormai sapete che c'è la diossina, ci vuole il permesso del sindaco, non si può andare a vedere il pane vin, ma a me succede di andare da qualche amico nei campi che clandestinamente, dai, non faccio, dico il peccato ma non il peccatore, impinsa il pane vin e magari viene fuori qualche vecchio, qualche anziano. Per noi, ripeto, per i nostri giovani, andare al pane vin è folklore, no, non c'è nulla di più, è una festa. Sì, una festa. Ma per i nostri vecchi era un rito religioso. Io ricordo quando ero bambino che le donne erano con il velo nero e pregavano intorno al pane vin sperando che l'annata fosse buona. Sì. Vi ricordate che cantavano Evviva la sanità del pane vin, sì, evviva la salute che il pane vin porta. Ma prima faceva... bruciavano gli scarti delle potature, quindi bruciavano. bruciavano i parassiti, bruciavano le uova, e quindi il fuoco era veramente fuoco purificatore. Aveva, tra i mille significati del panevin, aveva anche questo significato pratico di uccidere i parassiti. E i vecchi pregavano intorno al panevin, seri, c'era la loro speranza di poter veramente avere la cagliera piena di poenta. Allora, se sono da un amico e mi godo il panevin come negli anni della mia infanzia, della mia giovinezza, e viene fuori un anziano e comincia a cantare, beh, vi assicuro che anche se sono stonatissimo, io me lo prendo sotto braccio e comincio a cantare anch'io, e viva la sanità del panevin. E guardate che in quei momenti, anche se sono un uomo del 2015, io ci credo veramente, credo veramente, è una preghiera anche per me, e viva la sanità del panevin. Ma i nostri ragazzi, ste robe, non sono stati abituati. C'era non anche, possono più esatto, capire. Chiedo scusa al professore, c'era anche dalle nostre parti, non so se dappertutto, un appendice la mattina dopo, quando si andava a gridare carga e mantien parstoano che vien, non so se questa non la sapevo io. Ecco, esatto. Da noi, me la scrivo subito. Da noi, dalle parti così della bassa trevigiana, sì, c'era questo rito mattutino, proprio la mattina molto presto, e allora si andava a gridare carga e mantien parstoano che vien. Probabilmente. E andavate intorno alla braccia. Esattamente. Dove? Questa non la sapevo, gliela rubo. Ma lei è destra piave, esattamente. E io sono sinistra piave, e poi un'ultima cosa, non ho sentito parlare di San Biagio, protettore allora, San della gola. San Biagio, che è il 3 di febbraio, era importantissimo perché era il protettore contro le malattie polmonari. Quindi le chiesette di San Biagio o gli altari di San Biagio, voi li trovate sempre dove un tempo c'erano zone paludose. Zone paludose significava umidità, significava malattie polmonari e mal. Tante zanzare. San Biagio, che era il vescovo di Sebaste in Cappadocia, viene rappresentato come vestito da vescovo e come? Con un pettine da cardare. Il pettine da cardare erano i pettini dei denti di ferro con cui si tirava la lana, i cardatori della lana. Sì, giusto. E quindi viene rappresentato, perché quando hai mal di gola, la tespisa è poi con le candele, perché il giorno di San Biagio, se si va in chiesa, qui da noi Brembo c'è una chiesetta magnifica a Baver, una chiesetta che è privata, tutta affrescata, è una cosa superba, viene aperta dai signori del Cin, che ne sono i proprietari, generosamente. Il giorno di San Biagio c'è una grande folla, vanno a assistere alla messa, poi mangiano, se è già carnevale, mangiano le fritto e vanno a prendere le caramelle di San Biagio, che vengono benedette, e poi le mangi se hai mal di gola. Ecco. Ma al giorno d'oggi abbiamo gli antibiotici, quindi non ci più, ma una volta era importante. E il prete mette le due candele incrociate sopra la gola del fedele, ecco, a protezione. Ma quelle due candele incrociate che vengono poste sulla gola, in realtà, se noi le guardiamo, formano una lettera greca, la lettera chi, che è l'iniziale di Christos. Che cioè significa Cristo protegga la tua gola, per la mediazione, esatto, è quello. Bellissimo. Per la mediazione di Biagio. Perfetto. Viva San Biagio, quindi. Allora, professore, purtroppo... Noi la ringraziamo molto. Il nostro tempo è scaduto. Era troppo presto è scaduto, ma contiamo su un prossimo intervento, naturalmente. Anche perché ci deve illustrare i suoi libri, quindi... D'accordo. Allora la ringraziamo tanto. Grazie e alla prossima. E le diamo volta. Appuntamento per la prossima. Grazie, grazie professore. Grazie, buona grazie. Grazie, buona serata. Eccoci qua, Antonio. E ormai non ci resta che salutare. Grazie. E anche noi diciamo alla prossima occasione. Alla prossima occasione. Io, come sempre, dico a tutti con affetto. Ciao, ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.